Buongiorno New Hope, spero che siate tutti pronti per la parola e voglio mettervi subito al lavoro. Cercherò di non essere, di non andare molto a lungo perché so che i video sermoni o i sermoni in streaming sembrano più lunghi dei sermoni normali, quelli dal vivo. Quindi cominceremo oggi e vi porto subito a Primo Timoteo. Capitolo 3, verso 15. Quindi se state guardando negli Stati Uniti, benvenuti. Se state guardando in Europa, non sono sicura perché siete svegli così presto, così tardi. Ragazzi, quando ottenete questo messaggio, domani a Sigonella, per favore, fate chiesa davvero. Sedetevi insieme come una famiglia nel vostro soggiorno. Spegnete tutti i media, fate vestir bene, lavar bene i ragazzi, sedetevi insieme, spegnete i cellulari, rendetelo un momento sacro, pregate, lodate insieme al video della lode, poi ascoltate il sermone e poi pregate insieme. Facciamo che questo sia davvero il giorno del Signore. E adesso inizio con 1 Timoteo 3. 15, è un semplice verso, l'ho citato qualche tempo fa, mi occuperò di nuovo di questo. Paolo dice a Timoteo: io scrivo queste cose sperando di venire presto da te, affinché tu sappia, nel caso che dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. 1 Timoteo 3, 15. Quindi voglio rivedere velocemente, se voi siete stati parte o che non lo siete stati, di questa serie di sermoni, delle cose che è giusto che abbiate nella vostra memoria, quindi prendete nota, segnatele nella vostra Bibbia. Abbiamo parlato chiaro della teologia, in modo molto chiaro, della teologia della Chiesa, ciò che riguarda la Chiesa. Voglio ricordarvelo. Prima di tutto, che cosa non è? La Chiesa non è una libera connessione di cristiani nati di nuovo che si assemblano come vogliono, non è una cristiani libera tutti, non è una religione fatta dagli uomini. La Chiesa è fondata dalla volontà e dall'intento di Gesù stesso, è stata costruita per tutti coloro che credono che Gesù è il figlio del Dio vivente e che invocano il suo nome per la salvezza. La Chiesa è battezzata fin dal suo inizio dallo Spirito Santo e quindi la Chiesa è sovrannaturale. E se vi fermate a pensare a questo, la Chiesa è un'entità sovrannaturale, non può esistere senza un coinvolgimento sovrannaturale. La Chiesa è un insieme di uomini naturali che operano con il sovrannaturale. La Chiesa è, ricordate, preziosa per il Signore. È comprata con il suo sangue, amata teneramente da Lui e Lui desidera profondamente ritornare dalla sua Chiesa come uno sposo desidera tornare a prendere la sua sposa. Quindi non dovremmo cadere nella trappola di considerare minimizzare la bellezza, l'importanza, la validità, la bellezza e la potenza della Chiesa, trattarla con leggerezza, come qualcosa che non è tanto necessaria. Dobbiamo anche ricordare che la parola per Chiesa nel Nuovo Testamento è ecclesia, che questa parola è usata per i convocati, i chiamati, i riuniti. Quindi noi siamo la Chiesa, la riunione dei chiamati. Non c'è Chiesa se non siete chiamati, nati di nuovo. Non c'è Chiesa se non siete riuniti. Questa è la semplice teologia biblica all'antica. Siamo anche consapevoli che le immagini della Chiesa sono quelle di entità divine. Abbiamo imparato della vite e dei tralci, Abbiamo imparato sul corpo umano e tutte le sue parti, abbiamo imparato della sposa e il suo sposo, Gesù e la Chiesa. Abbiamo imparato che Pietro usa l'immagine di una costruzione, un edificio, pietre una sull'altra per costruire la casa di Dio. E Gesù usa un'altra immagine in Giovanni 10, dove Gesù usa l'immagine di un pastore e del suo gregge per descrivere la Chiesa. E questa non è una metafora, Gesù è davvero il buon pastore e noi come pastori siamo come dei sottopastori e le persone che sono parte della Chiesa e nati di nuovo sono le pecore. E questa è l'immagine della Chiesa. Parla sempre di riunione e di interconnessione fra le persone. Tutte le immagini della Chiesa nel Nuovo Testamento sono immagini di interconnessione. Non ci sono cavalieri solitari, non ci sono solisti. Tutto questo linguaggio del Nuovo Testamento parla di una comunità interconnessa. È importante dire questo alla nostra generazione più giovane, perché ci sono tante persone così anziane della vecchia chiesa che un po' hanno perso questo, ma adesso ci sono dei giovani che possono ricominciare e cominciare a costruire questo, quello che è la verità della chiesa. In Efesini 2:19 viene detto così: così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questo è quello che siete se siete cristiani nati di nuovo, non stranieri, non estranei, ma membri della famiglia, della casata di Dio. Niente ha senso nel Nuovo Testamento, nei doni, nelle operazioni dello Spirito Santo, senza una comunità riunita e interconnessa. Sei nato di nuovo, sei riunito in un gregge, hai preso il tuo posto come membro del corpo. Allora questo verso sta parlando direttamente a te quando Paolo scrive a Timoteo: io sto scrivendo a te che tu possa sapere come comportarti, come condurti nella casa di Dio che è la Chiesa del Dio vivente. Il pilastro è il supporto, il fondamento della verità. Paolo scrive al giovane Timoteo, che è il suo figlio spirituale, e si accerta che Timoteo avesse istruzioni su come comportarsi come membro della Chiesa. Questo mi tocca direttamente come pastore. Quindi è importante che Timoteo avesse istruzioni su come comportarsi nella Chiesa. Vale tanto per me quanto per voi. E voglio mostrarvi qualcosa. Se avete la vostra Bibbia, aprite a 1 Corinzi 14, rimarrò lì perché voglio anche arrivare poi al 12 e poi restare fra i due capitoli. Quindi se avete la vostra Bibbia, prendete anche le Bibbie per i bambini, aprite 1 Corinzi, capitolo 14. Voglio mostrarvi il verso 26, perché Paolo ci fa intravedere, ci dà una scintilla, un pezzo di quello che dovrebbe accadere quando la Chiesa si riunisce. Che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, o un insegnamento, o una rivelazione, o un parlare in altra lingua o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Ecco cosa Paolo dice qui ai Corinti. Quando vi riunite, forse uno di voi ha un salmo nel vostro cuore, ha un altro può avere un insegnamento, qualcun altro forse parlerà in un'altra lingua, cioè qualcuno di voi verrà a utilizzare dei doni spirituali, un altro possa avere una rivelazione da condividere con gli altri, ma lui dice questo: quando vi riunite, portate i vostri doni per contribuire al bene di tutti, affinché possiate edificarvi, costruirvi gli uni con gli altri. Questo è l'intento, ragazzi, lo scopo delle nostre riunioni ed è il risultato finale delle nostre riunioni, questo costruirci gli uni con gli altri. Io sono il pastore di New Hope, ma non è solo il mio unico ruolo. Il ruolo principale del pastore è di nutrire le pecore. Ecco perché Gesù dice a Pietro: allora nutri le mie pecore, sfama le mie pecore. Glielo dice 3 volte: dai da mangiare alle mie pecore. Quindi il grosso del ruolo del pastore è di nutrire le pecore, ma il ruolo principale dei membri è di portare i vostri doni alla riunione e di edificarvi gli uni gli altri. Questo è qualcosa che abbiamo bisogno di imparare, qualcosa che abbiamo bisogno di insegnare ed è qualcosa che io credo si stia perdendo, soprattutto nelle chiese occidentali. E ho un paio di teorie sul perché venga perduto questo nelle chiese oggi. Una delle ragioni è dovuta al fatto che le chiese americane sono delle chiese da consumatori commerciali. C'è molto questa idea di per favore venite su, venite nella mia chiesa, ecco cosa abbiamo da offrirvi. E quindi abbiamo una sorta di campagna marketing. Presentando il meglio dei prodotti della Chiesa come se la Chiesa producesse prodotti per consumatori e nessuno viene perché ha qualcosa da dare o da offrire, ma vengono solo perché hanno qualcosa da venire a prendere, da consumare. JFK, John Fitzgerald Kennedy, in uno dei suoi importanti discorsi, diceva: non vi chiedete cosa la Chiesa può fare per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per la vostra Chiesa. E questa è la filosofia che Paolo qui sta insegnando del perché ci riuniamo e cosa dovremmo fare. Un'altra ragione per cui abbiamo perso questa abitudine di venire in chiesa per contribuire è che i pastori hanno rubato in qualche modo il ruolo dei membri e lo tirano tutto sulla piattaforma. È vero che i pastori devono manifestare i doni nel predicare dalla piattaforma, ma quindi che noi pastori, i ministri hanno in qualche modo assunto a sé tutto il ruolo di manifestare, utilizzare i ruoli, scusate, i doni dalla piattaforma, dal pulpito. Non mi fraintendete, io penso che sia giusto usare i doni e ministrare dal punto di vista diciamo, dalla posizione di pastore, che i doni e le operazioni dello Spirito Santo. È vero che devono stare sul pulpito, ma devono anche stare nella comunità, perché così abbiamo in qualche modo creato una situazione in cui le persone si aspettano che tutte le operazioni dello Spirito Santo, tutti i doni vengano direttamente dal palco, insomma, dal pulpito, dalla piattaforma, e sono diventati degli spettatori passivi per lo più. Quindi quello che dovrebbe accadere nel corpo di Cristo viene portato tutto sulle piattaforme. E a causa di questo abbiamo creato dei saltatori di chiesa. Qui a Sigonella magari non avete molti posti in cui saltare da una chiesa all'altra, ma in America è molto comune vedere persone che saltano da una comunità all'altra, da una chiesa all'altra. Cercando la chiesa che alla fine si adatti meglio ai loro bisogni, che incontri i loro desideri, che risponda alle loro necessità. Quello che accade è che questi saltatori di chiesa in chiesa sono facilmente distratti dalla novità di una chiesa e una volta che finisce la novità passano a un'altra chiesa con una nuova novità. Io, insomma, sono nel campo da un bel po', conosco famiglie, ogni volta che le vedo ogni 3-4 anni frequentano una chiesa diversa, alcuni sono stati in 5-6 congregazioni da quando io li conosco, altri sono Si appaiono un po' qui, poi un po' lì, poi un po' in questa chiesa, poi nell'altra. Una settimana qua, una settimana lì, senza nessuna connessione, senza nessun impegno. Queste persone non comprendono come comportarsi, come Paolo scrive, nella chiesa di Dio, nella famiglia di Dio, e non comprendono la teologia della chiesa. Ma il mio scopo oggi è di aiutarci a capire come e dove dobbiamo stare, perché nel processo abbiamo perso un po' di disciplina su come comportarci nella chiesa. Adesso New Hope, io voglio davvero che ascoltiate, perché questo è abbastanza personale. Il mio valore profondo, fondamentale per la New Hope quest'anno è faccia a faccia, fianco a fianco, spalla a spalla. Questo mi continua a venirmi in preghiera. È necessario che noi sviluppiamo questo New Hope, che lo facilitiamo, che lo mettiamo in quelli che frequentano faccia a faccia, spalla a spalla, fianco a fianco. Subito dopo che ho avuto questa visione, è quasi ironico che ho avuto questa visione proprio in questo momento in cui siamo più separati di quanto lo siamo mai stati, ma questo non ferma certo la mia visione. Il mio scopo è di facilitare la comunità di credenti affinché funzionino faccia a faccia questa relazione. E se voi state prendendo appunti, scrivetelo questo. È importante che voi sappiate che questo è quello che noi stiamo cercando di raggiungere, faccia a faccia, fianco a fianco. Faccia a faccia e relazione, fianco a fianco, spalla a spalla e missione condivisa. Ed è qui dove io voglio andare nel 2020. E quindi, mentre stiamo aspettando per che arrivi il momento in cui possiamo fisicamente riunirci insieme, adorare l'uno a fianco all'altro, ascoltate Chiesa, perché non cominciamo la ricerca interiore adesso? Perché non cerchiamo di raggiungere quel livello che abbiamo bisogno per ognuno di voi personalmente per diventare un corpo funzionante, membro funzionante del corpo di Cristo. Cerchiamo di essere battezzati nello Spirito Santo, cerchiamo di imparare a udire la voce dello Spirito Santo e cominciare a obbedire quella mossa dello Spirito quando comincia a toccarci, a spingerci, a operare in quegli doni spirituali. Ricordate. Sviluppate gli insegnamenti della verità nella vostra vita. Camminate in quella canzone di lode. Camminate in quel canto di lode. Cominciate a immaginare come funziona incoraggiare, spingere e nutrire, le altre persone. Sviluppate adesso il cuore di un servo. Donatori, non coloro che prendono, ma coloro che danno. Voglio edificare, dare nella Chiesa. Non voglio essere quello che calunnia, quello che parla dietro le spalle. Voglio sviluppare cura reciproca. Non voglio lamentarmi e prosciugare. Voglio costruire. Quindi sviluppiamo quella sorta di non preoccupazione, ma cura reciproca per tutti gli altri, per tutte le persone nella Chiesa. Non voglio essere la testa calda, non voglio essere quell'arrabbiato. Non voglio essere quello suscettibile, non voglio essere ostile. Voglio essere quello che versa olio e vino. Non voglio essere codipendente, bisognoso, voglio essere un collaboratore che incontra i bisogni delle altre persone. Non è quello, quando si tratta di chiesa, non è cosa c'è in questa chiesa per me, ma cosa sono io in questa chiesa per chi. Queste sono le linee guida. Credo questo con tutto il mio cuore. Ascoltate bene, se la chiesa, se il corpo di Cristo, e Paolo dice che la chiesa lo è, amare e prendersi cura della Chiesa è il modo più intimo che abbiamo per Amare, prenderci cura di Gesù. Se noi vogliamo davvero amare intimamente Gesù, allora dobbiamo cominciare ad amare e nutrire tutti quelli che sono la sua Chiesa. E questo è certo una qualità di lode, di adorazione molto più profonda di quella che si fa sulla piattaforma il sabato di domenica mattina. Quindi vi sfido tutti, siamo tutti al punto di rivalutare noi stessi e quando ci rivedremo desidero che tutti noi operiamo faccia a faccia, spalla a spalla. Lo Spirito Santo attivo vuole facilitare questo in noi, perché quando ci ritroveremo insieme come Chiesa, questo supererà, scavalcherà le nostre differenze di cultura, di linguaggio, anche di genere, anche tutti questi sono superati dalla presenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo attivamente battezzerà la Chiesa di potere e forse io e voi non avremo lo stesso DNA, ma certo abbiamo tutti lo stesso Spirito Santo. Non abbiamo la stessa cittadinanza scusate, nazionale, ma tutti abbiamo lo stesso Spirito Santo. Forse non abbiamo lo stesso colore, ma tutti abbiamo lo stesso Spirito Santo. E questo è quello che Paolo dice ai Corinzi. Con lo Spirito Santo non c'è nessuna distinzione. A causa dello Spirito Santo non c'è distinzione fra greci, ebrei, maschi, femmine, perché siamo tutti stati chiamati a bere dalla stessa fontana, tutti battezzati con lo stesso spirito, gente piena di Spirito Santo che opera nell'unzione, nei doni dello Spirito Santo, riuniti nella stessa chiesa, e questo può solo accadere quando noi ci riuniamo. Wow! Quanto desiderate questo? Quanti di voi siete pronti per questo? Voglio mostrarvi qualcosa adesso nel capitolo 12 di Primo Corinzi. Questo è una sorta di ci richiamo, di richiamo a questo. Andate adesso al 12, capitolo 12. Sono i miei capitoli favoriti nella Bibbia, 12, 13, 14. È un discorso, come si tengono quasi per mano. E sui doni dello Spirito Santo e la loro distribuzione nella Chiesa. È un capitolo in cui si dice del perché. E adesso guardate il capitolo 12, verso 7. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. E infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza. A un altro parola di conoscenza secondo il medesimo spirito, a un altro fede mediante il medesimo spirito, a un altro doni di guarigione per mezzo del medesimo spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Ecco, guardate giù al verso 28 e dice: E Dio ha posto nella Chiesa, in primo luogo, degli apostoli. Dio ha messo questo nella Chiesa. Dio l'ha fatto nella riunione dei credenti, dove nella Chiesa lo Spirito Santo distribuisce questi come lui vuole. Questo è lo scopo, che ognuno di noi, operando nei doni dello Spirito, costruisca tutto il corpo. Guardate, lo Spirito Santo ha bisogno di voi, la Chiesa ha bisogno di voi, Dio ha bisogno di voi, che voi siate battezzati nello Spirito Santo affinché possiate costruire la riunione con tutte le sue manifestazioni spirituali dei doni. Dio non ha messo questi doni sulla CBN, non li ha messi su YouTube, non li ha messi nei televangelisti che affinché funzionino attraverso l'etere o negli autoproclamati profeti. Anzi, la promozione di sé, l'autopromozione, il bisogno di essere visti, di essere davanti alle persone, praticamente chiuderà, fermerà la vera mossa dello Spirito Santo. Ma quando noi siamo pronti, a fare ciò che lo Spirito Santo ci ha mandati a fare, cioè edificare gli altri, noi no, non possiamo in alcun modo autopromuoverci. Non possiamo autopromuoverci e edificare gli altri allo stesso tempo, perché lo Spirito Santo opera nei suoi doni secondo la sua natura. E Dio ha messo questi doni nella Chiesa affinché potessero essere usati per edificare, costruire le persone della Chiesa. Adesso sempre nella Bibbia, andiamo. Quindi riprendete la vostra Bibbia, andate a Efesini 4, verso 11, e guardate cosa dice. Lui è lui che ha dato, è lui chi? Lui è Cristo, ovviamente. Lui è chi ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede. E noi abbiamo imparato che il corpo di Cristo di cui parla questo verso è la Chiesa. Gesù stesso diede alla Chiesa cosa? Apostoli, coloro che furono mandati, profeti, quelli che hanno una parola per questa generazione o per alcuni gruppi, evangelisti, coloro che vanno ai perduti col Vangelo, pastori, coloro che presiedono alla riunione della Chiesa, insegnanti, coloro che impartiscono e discepolano nella Chiesa. Perché? Per equipaggiare i santi, questi siete voi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Questo è così semplice, non riesco a capire perché abbiamo potuto veramente comprenderlo in maniera così erronea, farlo e capovolgerlo. Questo è il ministero 5 aspetti, dovrebbe essere funzionale nella Chiesa, è un dono per il corpo di Cristo, da parte di Dio, e noi non possiamo perdere di vista questo. Non sono titoli, non so come siamo arrivati a usarli come titoli, questi ministeri. Questi sono ministeri e spero che voi, Chiesa, ognuno di questi ministeri compie il proprio ruolo per il corpo del Cristo. Il corpo di Cristo è una chiesa funzionante, piena di spirito, perfettamente efficace. Io come pastore a volte posso parlare, a volte pronunciare una parola profetica per voi, perché questo è ciò che mi arriva. Posso a volte fare il lavoro dell'evangelista, raggiungendo i perduti, posso anche a volte toccare il ruolo di insegnante quando sto ministrando a voi, e sono grato che Dio abbia posto me come vostro pastore, che diciamo si cura di voi, e vi posso assicurare che quando noi siamo stati trasferiti, ci siamo trasferiti a Sigonella, certo non lo facevamo per avere una promozione di lavoro o per avere più soldi, non stavamo cercando nessuna promozione terrena. Dio ci ha posizionati esattamente dove siamo, allo scopo di equipaggiare i santi ed edificare La Chiesa, io voglio farlo ancora meglio nel 2020, voglio che anche i membri della Chiesa imparino ad essere ricchi dei doni dello Spirito Santo e portare, ministrare con questi doni, ministrare gli uni agli altri per rafforzarsi, edificare e sollevarsi e crescere insieme, crescere quella potente, efficace esercito che Dio vuole far crescere a Sigonella. Adesso stiamo faccia a faccia, spalla a falla. Ogni tanto bevo, mia moglie ha fatto questa cosa per aiutarmi a rinfrescarmi. Quindi i doni dello Spirito Santo sono doni da ministeri da praticare faccia a faccia, spalla a spalla. E non predicherò mai abbastanza su questo mentre ci avviciniamo alla Pentecoste. Ecco cosa, come dovrebbe sembrare quando siete battezzati con lo Spirito Santo e cominciate a imparare a ascoltare la guida dello Spirito Santo, le sue piccole spinte sulla spalla. Non è come quando un tizio viene e dice: io sono un profeta, ti mette le mani sulla testa e ti dice alcune generiche frasi, tu sei la testa, non sei la coda, questa è la tua stagione di crescita, di favore. Su, dai, questa opera appartiene al corpo. Voi, tu, membro del corpo, prendi il tuo fratello mentre stai per uscire dopo il servizio, lo prendi, lo fermi davanti a te, lo guardi dritto negli occhi, gli dici: sai, fratello, io ieri stavo pregando e mentre pregavo mi sei venuto davanti agli occhi, e mentre pregavo io ho cominciato a pregare specificamente per pace nel tuo luogo di lavoro e che Dio mettesse tutte cose a posto per te nel tuo posto di lavoro. E mentre voi lo dite, lui comincia a cadere a pezzi e dice: sì, fratello, io avevo bisogno di questo, non so che, come hai fatto a saperlo, io davvero avevo bisogno di questo. E quindi lui, il fratello che sta ricevendo questa parola in questo momento, comincia veramente a sbriciolarsi, quasi gli vengono le lacrime, perché dice: sai, io non so cosa hai pregato, ma so che quello che hai pregato è esattamente ciò di cui avevo bisogno, perché non sai che cosa ho passato in questo periodo al lavoro. E lui adesso si sente rafforzato perché sa che Dio gli copre le spalle e voi avete operato nei doni dello Spirito Santo. E perché è accaduto questo? Perché lo Spirito Santo, mentre pregavate, vi ha dato una parola di conoscenza specifica per il vostro fratello. E il fatto che voi l'avete condivisa ha edificato la sua fede, gli ha dato l'incoraggiamento che Dio lo sta proteggendo. Questa è l'operazione vera e propria, l'autentica operazione dei doni dello Spirito Santo. Non è sulla piattaforma per essere visti, non perché voi possiate pavoneggiarvi, ma faccia a faccia. L'uno a fianco all'altro, è necessario essere pieni di Spirito Santo per poter fare questo, per fare un ministero faccia a faccia, veramente. E lo stesso per il ministero spalla a spalla, fianco a fianco. Questo ci ricorda che noi siamo nel ministero insieme. In generale, le donne si connettono più faccia a faccia, mentre gli uomini più fianco a fianco, cioè essendo insieme, compiere un compito insieme nel ministero, raccolgono una sfida insieme, come quando fratelli di braccia, diciamo, hanno un compito insieme e poi rimangono fratelli per la vita, mentre le donne amano più essere faccia a faccia e guardarsi negli occhi e condividere i sentimenti, ciò come si sentono. Ma noi uomini ci sentiamo più di avere come una missione condivisa, correre questa gara insieme. Questo è il mio ministero degli uomini, questo è il ministero delle donne della sorella Ronda. Noi non vogliamo splendere, noi vogliamo che voi risplendiate. E noi vogliamo che voi facciate meglio di quanto noi abbiamo mai fatto. Per noi, quello che ci rende gioiosi è vedervi correre davanti a noi e afferrare questa vita gloriosa. in cui voi, ognuno di voi ministra, voi ministrate gli uni agli altri. Vi vogliamo vedere pieni di Spirito Santo, vi vogliamo vedere veramente correre questa gara. Quindi quando si tratta di Chiesa, noi abbiamo bisogno di entrambe le cose, sia di faccia a faccia, sia di fianco a fianco. I miei sentimenti non sono feriti se voi mi levate il lavoro e andate avanti e volate alto più di quanto io abbia fatto. Ci rende gioiosi a Miss Ronda e a me di spingervi fuori dal nido a fare il vostro volo. Siamo felici se voi afferrate questa energia, questa forza che vi viene dal cielo. Non siamo noi forse ispirati quando vediamo quelle storie, ascoltiamo le storie di quei corridori olimpici che corrono la gara e forse magari uno di quei ragazzi si ferisce, si storce una caviglia e allora cade e esce fuori dalla pista e mentre tutti i corridori lo superano e lo lasciano indietro, uno dei ragazzi, però uno degli altri, è toccato dalla compassione, si avvicina a lui e lo va a prendere, lo solleva e finisce la gara portando il compagno al traguardo. E insieme passano il traguardo, quasi strascinandolo. Lo vediamo spesso questo e noi pensiamo che sia una cosa bellissima. Questo è proprio ciò che significa correre questa gara nella Chiesa. Paolo dice: correte affinché possiate vincere. E se i vostri scopi sono una promozione, una ricompensa, questa scena del corridore che rinuncia al suo tempo di gara, al tempo che potrebbe, al traguardo, diciamo, al record che potrebbe fare di gara per aiutare il compagno ferito e che lo porta zoppicante fino al traguardo, questo è quello che a noi piace vedere. Quindi se voi state correndo appunto per ricompense, per un premio terreno, per riconoscimento o per soldi, guardate, questo sarà il vostro premio, quello che voi cercate, ma se voi state cercando invece un premio che sia celeste, il mio scopo è di vederlo faccia a faccia. Io non voglio arrivare a quella linea di traguardo senza di voi, io non voglio lasciare nessuno indietro. Se noi finiremo questa gara, la finiremo insieme, come la Chiesa, spalla a spalla, fianco a fianco. Questo è lo spirito della Chiesa. Questo è lo spirito di cui abbiamo bisogno a New Hope. Ed io chiedo che questo sta già funzionando e adesso è tempo per vedere veramente la fioritura, l'esplosione di tutto questo. Voi sapete tutti che io amo correre, ho corso per anni e anni. Ho corso anche ad Atene, alla maratona, da quando sono stata a casa ho corso qui al parco, in questo bellissimo parco qui nella nostra città, Houston, c'è una pista di ghiaia di 3 miglia, io adoro correre qui perché sono cresciuto qui. Corro davanti alla chiesa cattolica in cui sono stato battezzato da piccolo, davanti alla piscina in cui ho imparato a nuotare. E sono nostalgico quando corro e anche dove sono stato, dove mi allenavo mentre mi univo ai militari. E co correvo 3, 6, 9 miglia su questo percorso. Io non sono un corridore veloce, ma sono un corridore di resistenza. Riesco a correre lunghe distanze. Se ho una distanza da compiere, la raggiungo. Se devo fare 10 miglia, riuscirò a farli. Non Quando sono andata alla maratona, non l'avevo mai fatto prima, non avevo mai fatto quella distanza, ma per me lasciare a metà non era neanche un'opzione, mi fermavo e poi riprendevo. E spesso paragono il nostro cammino spirituale al correre. Quando io corro, a volte posso correre per 2 o 3 miglia e a volte le persone mi passano con sprint, passano davanti a me e mi superano. Persone anche che sembrano molto più vecchie di me, ma io so anche che poco, un certo tempo dopo che mi hanno superato, loro hanno già finito praticamente la loro corsa e vanno a casa a farsi la doccia e sono lì a prendersi il loro caffè latte, ma io sono ancora lì sulla pista. E non mi preoccupo per quelli che fanno lo sprint e mi superano, perché io so come corro. A volte so che a volte le persone mi passano come uno zoom, così vanno e mi lasciano indietro. Loro mi passano, ma dopo, sullo stesso percorso, io vedo quella persona magari seduta su una panchina che si riposa, mentre io sto ancora correndo, io sto ancora mantenendo la gara. Io non ho bisogno, e voi non avete bisogno di tenere i vostri occhi su qualcuno che sta andando avanti più veloce di voi, che ha più talento, che ha più capacità, che ha più fede, che ha più doni o sembra più spirituale di voi. Il vostro scopo, il mio scopo è di restare in gara. Lasciatevi dire ancora, a volte do attenzione, l'attenzione mi cade, ci sono persone davanti a me, a volte io guardo le persone davanti a me che stanno correndo a un passo più veloce, quindi se quello che io voglio, quello che faccio se voglio correre più veloce, a volte mi allineo dietro qualcuno che sta andando più veloce e ascolto il loro passo. Ascolto il ritmo dei loro passi sul terreno e piano piano mi sincronizzo con loro e comincio a andare più veloce perché guardo quelli davanti a me e sto tenendo il passo con loro. Qual è lo scopo di questa volta? Se volete crescere, se volete andare avanti dal punto in cui siete, dovete agganciarvi a qualcuno che è più forte della fede, in modo che voi possiate mantenere il passo con quelli che stanno crescendo nel Signore. Come faremo a alzarci in volo come aquile se tutto quello che facciamo è da polli? Avete notato qualcuno in chiesa che voi guardate con attenzione, che voi ammirate, che voi pensate voglio essere come quella persona, avere la sua vita di preghiera? Ecco quello che abbiamo noi in chiesa. Avvicinatevi. Avvicinatevi a questa persona, a me, e adattate il vostro passo al suo. Allineatevi con qualcuno così e sincronizzate il vostro passo con loro. Ecco perché noi esistiamo come corpo di Cristo. Un'altra cosa che io ho notato, che io so sul percorso di corsa e che a volte sinceramente mi irrita, è che a volte io sono in corsa, ho un buon passo e poi sento qualcuno che mi viene sui tacchi praticamente. E lo sento correre proprio, mi corre dietro i talloni. Sento i loro passi sulla ghiaia, questo è veramente irritante per me. E io voglio che proprio si levino di torno, ma non lo fanno. A volte mi sposto anche a destra perché se poi, a volte uno si deve muovere a destra in modo da non bloccare il cammino. Io lo faccio, ma loro non vanno via e sono sempre lì sui miei tacchi e diventa così irritante. E a volte l'unico modo per liberarmi di questa cosa è che devo aumentare il mio passo e scattare. Avete compreso il punto? Non arrabbiate, non abbiate risentimento per quelli che vi stanno sui talloni, cioè quelli che sanno siete in difficoltà, sa quelli che sanno che state per crollare, che state per mollare e vi vengono addosso quasi per spingervi a non farlo. Il messaggio è non prendetevela con chi vi spinge ad andare avanti veloci, se no voi resterete sempre deboli, cadrete sempre sullo stesso cammino di collaterale. Volte loro sanno che voi potreste andare a un tempo migliore e vengono dietro di voi proprio per spingervi lì. Quindi non abbiate risentimento per lui. Smettete questo, ah, non voglio che le persone mi giudichino, non voglio che nessuno si preoccupi per me, guardi cosa faccio io. Se voi fate questo, voi resterete sempre allo stesso posto perché non state permettendo alla Chiesa di venire accanto a voi e spingervi a correre questa gara di più. Se resistete a questo, resterete sempre deboli. Finché cercherete di correre questa gara da soli, sarete sempre piegati a metà con i crampi. Lasciate che gli altri vi aiutino ad andare avanti. Insomma, in altre parole, non abbiate risentimento per quelli che vi coprono le spalle. Perché se ce l'avete con loro e non glielo permettete, cadete sempre nello stesso ciclo. Ciclo. E se no resterete sempre di lato mentre tutti gli altri vi passano avanti. Lasciate che qualcuno vi tenga responsabile, vi faccia da accountability partner, da compagno che vi controlla. Lasciate che quelli che vi stanno sui tacchi vi spingano avanti. Oh, ragazzi, io lo so che l'avete capito. Vi sfido, soprattutto alcuni di voi ragazzi del militare. So quanto è difficile, cioè quanto è facile perdersi nella cultura militare, nel mondo militare. E poi tornare la domenica con la coda in mezzo alle gambe perché vi sentite sconfitti, sapete che siete stati dove non dovevate essere. E l'unico modo in cui supererete tutta questa situazione è di lasciare qualcuno spingervi avanti, anche se è irritante, perché questo è ciò che la Chiesa. Questo è quello a cui serve la Chiesa, questo è proprio ciò che è la Chiesa. Quando quel ragazzo si avvicina, quell'altro si avvicina a voi e dice: ho deciso, io non ti lascerò cadere indietro, non ti lascerò indietro, non ti permetterò di restare indietro. Wow, questo per me è davvero eccitante, questa è la bellezza di essere parte del corpo di Cristo. Noi siamo in questa gara insieme, stiamo correndo questa gara insieme, finiremo questa gara insieme. Che voi cadiate fuori gara non è un'opzione. Dovrete bloccare il mio numero se volete, bloccare il mio Facebook, farvi dare un ordine di restrizione contro di me. Non avete il permesso di mollare se il pastore qui è ancora vicino a voi nella dove può raggiungervi. E quindi voglio che decidiate, che vi mettete la testa a posto e cominciate a cercare sopra ogni cosa la potenza dello Spirito Santo che vi equipaggi, proprio che vi dia potenza, che cerchiate i doni dello Spirito Santo. Approfondite la vostra conoscenza, scavate nella parola, sviluppate le vostre capacità, i vostri talenti e presto ci vedremo insieme e faccia a faccia, fianco a fianco, faremo sorgere la Chiesa del Dio vivente, i pilastri, e impareremo come comportarci nella Chiesa di Dio. Ragazzi, vi amo, vi voglio bene, voglio che ovunque voi siate, adesso alziate le vostre mani, so che questa cosa è registrata prima, so che sono migliaia di miglia, diciamo, ma so che lo Spirito Santo ascolta la mia preghiera e che in qualunque momento voi ascoltate questo. Nel nome di Gesù Cristo di Nazareth, io prego per il corpo di Cristo, prego per il corpo di Cristo che sta guardando, ovunque loro si trovino, in Giappone, in Europa, negli Stati Uniti, costa est, ovest, ovunque voi siate. Dovunque voi ricevete questo, io prego che adesso, mentre voi alzate le mani in accordo che il Dio dei cieli vi inondi con luce di speranza e che vi ribattezzi con l'amore di Dio che passa ogni comprensione, che la pace perfetta vi raggiunga. Io prego, Signore, che tu adesso battezzi ogni una di queste famiglie con lo Spirito Santo, ogni membro della loro famiglia, fluisci fuori da loro, parla nello Spirito Santo con lingue sante. Dagli ministeri, ogni singolo adulto, Signore, riempili con il tuo Spirito, fluisci da loro. In parole di saggezza, parole di conoscenza e in discernimento e in lingue, in interpretazione e nelle profezie e parole di fede, parole di miracoli affinché noi possiamo essere equipaggiati, perfettamente forniti per essere il corpo di Cristo in una maniera missionaria. Equipaggiata, dinamico, gioioso. Toccali adesso, Signore, guarisci i malati, guarisci quelli che sono malati emozionali, restaura matrimoni, tocca i bambini. Veniamo adesso contro l'agitazione nella casa. Padre, rilascia la tua pace adesso nel nome di Gesù. Ti ringrazio per questo gregge sul quale tu mi hai mandato a vigilare. Portaci a casa velocemente, portaci a Sigonella dove noi apparteniamo. Apri le porte, Signore, nel nome di Gesù e tutti dicano insieme Amen. Spero di vedervi tutti mercoledì notte allo studio biblico. Single, sarete appena torniamo a casa del pastore, cucineremo tanti pasti. Adesso mi dispiace non essere lì per voi, ma non appena torniamo, cucineremo un pasto, quello che piace a voi. Potrebbe essere pollo fritto di nuovo, ma noi cucineremo per tutti voi. Voi siete tutti nel mio cuore, ogni single giovane adulto, contattatemi, restiamo in contatto. Edificate qualcuno, mandate messaggi, chiamate. Mandatemi email, fate qualcosa, edificate il corpo di Cristo, restate in contatto in questi giorni e fatelo con amore. Dio vi benedica.